Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinile Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rosso on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Partecipa. 21:15 in questo momento e ritorniamo in voce su Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale sugli eco di Mastello dalla cattedrale. Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Do It Yourself Invasion. Ricordiamo brevemente i contatti e quindi l'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info, dove potete scrivere per segnalarci le vostre iniziative o per proporci le vostre autoproduzioni. Questo è uno spazio libero, appunto, concentrato su tutto quello che è l'autoproduzione musicale e non solo. A tal proposito ringraziamo Luca che ci è passato a trovare. Portandoci in sottoscrizione due bellissime magliette da lui realizzate proprio per il banchetto di Radio Onda Rossa. Quindi grazie Luca. Eh sì, perché Radio Onda Rossa dal 1977 ha scelto di essere libera ed indipendente, senza padrini, senza padroni. E va avanti senza pubblicità, senza alcun... senza alcun rimborso, se non la libera sottoscrizione di ascoltatori ed ascoltatrici. Nonché, appunto, dal libero contributo di redattori e redattrici. Quindi tra poco ci andremo a festeggiare il nostro 39esimo anno di attività. E per continuare a sostenere questo progetto potete farlo attraverso il sito della radio www.ondarossa.info andando a cliccare su Sostieni sarete indirizzati ad una pagina dove troverete tutte le coordinate per poter sostenere questo progetto. Oppure potete farlo attraverso lo storico conto corrente postale, il 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma San Lorenzo. So che non avete fatto in tempo a segnarlo, ma lo troverete sempre sulla pagina dedicata, appunto sul sito di Radio Onda Rossa. Sempre attraverso il sito della radio potete ascoltare la radio appunto in diretta streaming oltre le barriere dell'FM, andando a cliccare su Ascolta. Non per ultimo il numero di telefono 0649 1750. Noi vi lasciamo questa autoproduzione, che è il primo lavoro degli URZ. E tra pochissimo andiamo a presentare l'ospite telefonico di questa sera. Siamo giunti al terzo appuntamento con le vostre lettere, un progetto nato dalla collaborazione dei Kalashnikov Collective appunto con questa trasmissione. E quindi una serie di appuntamenti dove vi facciamo ascoltare dei racconti appunto ideati e musicati dai Kalashnikov Collective, che servono come invito a tutti e tutte appunto a chi ha i suoi scritti chiusi nel cassetto e quindi vi esortiamo a tirarli fuori e farvi conoscere. Poi più avanti vi andiamo insomma a ricordare le coordinate per poter collaborare con questo progetto. Vi lasciamo con un po' di URZ. Allora, riemergiamo dalle nebbie esoteriche degli URSS e magicamente abbiamo evocato una presenza qui negli studi di Radio Onda Rossa. Abbiamo in collegamento Sarta. Bella fantasma, ciao a tutti. Bella, benvenuto a Do It Yourself Invasion. È un grande piacere essere qua con te e sulle frequenze della radio prestigiosa. E dai. E dai, spingiamo. Bene, sì. Marchettoni, insomma. Benissimo. No, grazie, insomma, di presenziare appunto in questa puntata di Do It Yourself Invasion, perché andiamo a presentare un altro racconto dalla serie che avete realizzato appunto per Radio Onda Rossa. E allora lo vogliamo cominciare insomma a presentare appunto questo nuovo racconto? Sì, lo presentiamo subito, molto volentieri, anzi grazie a te per tutta questa roba. Vabbè, ma adesso i salamelecchi magari li chiudiamo, insomma, e andiamo al sodo. Allora, questo racconto si intitola Non credo, è un racconto a tema guerra. Il tema centrale del racconto è la guerra. Si tratta di un racconto inserito per la prima volta nel 10 pollici split che abbiamo fatto con noi, collettivo Kalashnikov, con il Contrasto, Fascord e Cesena, nel 2014, un paio d'anni fa. È un racconto che ha scritto Valeria, che insomma avete conosciuto penso 3 settimane fa, 4 settimane fa, su Concept di Stiopa, e che abbiamo musicato appunto secondo la prassi di questa appunto collaborazione che abbiamo messo insieme, con un sottofondo minimal ambient suonato da Stiopa e dal Don in presenza del Tragico, insomma. E il racconto allora è stato messo in questo split perché appunto è in linea con il concept, ha una linea molto precisa che è quella appunto di parlare di guerra, però di guerra non dal punto di vista, diciamo, mediatico, intesa come un fatto eccezionale che magari viene concepito opposto allo stato di pace, che riguarda magari luoghi lontani, combattuta da uomini in divisa, queste robe qua, come qualcosa che in fondo non ci riguarda, no? Ma la guerra che viviamo qui ed ora, cioè nella nostra quotidianità. Il concetto è, di questo racconto, abbiamo voluto mettere in discussione l'idea che esista una linea netta di separazione tra lo stato di guerra e quello di pace. Cioè questa demarcazione che ci dicono esistere, che sta nei libri di storia, insomma, a ben vedere in realtà è una differenza che ha più un carattere ideologico. Cioè i termini come pace e guerra nella nostra società hanno un fondo sempre di ipocrisia, è un'ipocrisia linguistica e concettuale che in fondo è un po' lo specchio della società in cui viviamo, dove le parole sono sempre più scollate dalla realtà e dove magari i media, anziché descrivere la realtà, la plasmano con dei tormentoni, delle loro appunto comunicazioni ideologiche. Il racconto appunto parla di guerra, parla di soldati, di trincea, in una maniera un po' metaforica, con un linguaggio un po' fantascientifico, e fondamentalmente dice che la realtà in cui viviamo noi viviamo in un sistema di vita che fondamentalmente è dannoso, se non letale, per il pianeta Terra, come sanno molti dei suoi abitanti, umani e non umani, e fondamentalmente lo stile di vita capitalistico nel suo funzionamento ordinario miete molte più vittime della guerra stessa, anzi è esso stesso una guerra. Per cui questo è un po' il tema del racconto, chiaramente in chiave un po' più onirica, potremmo dire. No, faccio un ultimo esempio per capire bene, no? Abbiamo riportato anche sul nostro blog una descrizione abbastanza ampia del concept intorno a quel disco di cui appunto il racconto è una parte, e abbiamo citato il crollo del complesso produttivo che è avvenuto nel 2013 in Bangladesh. A Dhaka è crollato uno stabilimento dove facevano manifatture, insomma, e improvvisamente, no, la notizia è stata data come se fosse una cosa, sai, di qualche imprenditore locale, ma i sistemi di tutela del lavoro non sono come da noi, ma lì ci sarà stato chissà quale sultano, lì sono poveri, non si sa mai, non ci sono le regole, eccetera. Questi ignari lavoratori che sono stati seppelliti barbaramente dentro questa struttura che è crollata, stavano lavorando, chiaramente sottopagati in maniera vergognosa, per produrre le merci che troviamo nei nostri centri commerciali, cioè per i vari marchi, la Benetton, sì, piuttosto sì, che altri. Le fantastiche magliette a prezzi scontatissimi. Esatto, esatto. Per cui fondamentalmente noi occidentali ci siamo scoperti, cioè in quella notizia, ad esempio, che è una delle tante, per carità, però ha un valore simbolico importante, perché l'Occidente si scopre direttamente responsabile della sciagura, la nostra quotidianità si trova ad essere collegata con questi morti, appunto, lasciati sul campo di battaglia come se fosse una guerra. E questo succede ogni giorno, se non sono gli operai del Bangladesh, sono i migranti morti nel Mar Mediterraneo o qualche operaio sottopagato che cade da un'impalcatura in un cantiere dopo aver lavorato 12 ore. Per cui il concetto di base è che l'ordinario funzionamento del sistema capitalistico miete tante vittime quanto una guerra, quindi come se fosse... Questo è un po' truce, diciamo, il concetto, ma è la realtà, purtroppo. Quindi il racconto parla di questo. Va bene, io direi di ascoltare il racconto e poi, insomma, magari se ci vengono in mente un po' di riflessioni, ne parliamo insieme. Molto volentieri. Ok, allora io rimanderei però innanzitutto la chiamata alle armi, che è appunto l'urlo di Valeria, appunto, che ha registrato appunto la chiamata alle armi per arruolatevi. Perfetto, che è le vostre lettere, e poi mandiamo subito il racconto e ci risentiamo tra poco. Bene, stai lì, bella. Il primo urlo ha rotto quel silenzio di secoli, di parole rubate dal vino rosso e vomitato all'angolo del marciapiede. La nostra voce, finalmente estranea, aveva il colore del canto degli insetti. Un esercito silenzioso costruttore di un mondo segreto nel nostro torace. Giorno dopo giorno avevano scavato tunnel, gallerie ed un maestoso duomo fatto di ossa e carne. Ci siamo battuti il petto una, due, tre volte e abbiamo ascoltato l'eco di un cuore palpitante, inebetito e bugiardo. In quella notte di maggio, un temporale era scoppiato all'improvviso, facendo saltare l'unica lampadina della nostra cella. Stavamo leggendo le vostre lettere. Fratelli, sorelle, guerrieri della provincia nebbiosa e tormentata dalle zanzare, in cui si impara a lavorare prima ancora di odiare, ribelli dei quartieri popolari occupati, davanti alle vostre tavole imbandite di frutta corrotta e lettine di birra del discount, eroi del gelo che indossate il coraggio con disinvoltura durante un concerto clandestino, in un'epoca di dittatura e rassegnazione, folli autosabotatori di binari di piombo, su cui siete nati saldati, incastrati ed obbligati dal benessere del vostro sangue. Le vostre parole hanno riempito le nostre mani fino a straripare. Goccia dopo goccia, il temporale è esploso anche tra queste mura, bagnando i materassi su cui abbiamo contato i nostri morti cantando. La vecchia lampadina di incandescenza si è spenta in una smorfia di fastidio. E noi abbiamo aperto la bocca e ne è uscito un urlo. Da molti anni ormai vige la legge marziale, la indetta alla dittatura militare. La repressione, un po' sanguinaria, è giustificata dall'eccezionalità della situazione, che ormai dura da un tempo che nessuno ricorda più con precisione, da alcuni giorni, da mesi, anni. Da quando è iniziata la guerra? Quando è iniziata la guerra? Non è importante saperlo. Fatto sta che i più perseguitati, da sempre, sono i cosiddetti pacifisti. Visionari che non credono nella guerra, in nome della quale vengono chiesti tutti questi immani sacrifici alle persone. I pacifisti dubitano proprio che la guerra esista o che sia mai esistita. Il fronte però è là, e quando si è stretti alla lotteria di guerra bisogna andarci, considerando che sono pochi quelli che da laggiù fanno ritorno, forse nessuno. Occorre constatare che si muore, dunque la guerra esiste. Ma il problema è semmai contro chi la si sta combattendo la guerra. Su questo aspetto regna un profondo disaccordo. D'altronde ognuno ha i suoi nemici. E comunque, non chiedetelo alla recluta, che se ne sta in trincea, in mezzo alla polvere e alle formiche, perché lui è per la pace. Sorso per la guerra che combattiamo, sorso per la pace che costruiamo. Non è mai giorno, non è mai notte, il tempo eterno con la vodka fu in me. Il sapore dell'eroe immortale. Scena 1, esterno. Prime ore di un debole tramonto che ha messo a tacere una giornata umida e fredda. Un soldato si sbottona la giacca militare nera, decorata da una lunga striscia catarifrangente sulla lunghezza delle maniche. I bottoni, illuminati a LED, si sfilano dall'asola sotto le sue dita tremanti. È debole e stanco. Una goccia di sudore precipita dalla punta del naso nel fango bruno della trincea. La seconda goccia verrà raccolta dalla lingua bianca e piena di tagli del ragazzo. La divisa, pregna di sudore e dell'umidità della pianura, viene messa ad asciugare distesa sul grande zaino di tela e vinile. È dalle prime ore del mattino che scava verso ovest. Un raggio dell'ultimo sole colpisce il tessuto riflettente e dà origine ad un fuoco artificiale di luci ed abbagli. Il soldato si guarda intorno allarmato. Potrebbero avermi visto. Ma intorno è silenzio. Gracidare di rane è ancora silenzio ed il suo cuore che batte nel petto nudo. Il rischio di venir scoperto è il prezzo da pagare per avere una divisa asciutta quando calerà la notte e il gelo gli sarà sopra come un rapace. Se tenesse gli abiti madidi di nebbia e sudore, gli si gelerebbero addosso. C'è stato un tempo prima di tutto questo. Racconta l'Irudinea che persevera nel succhiare il suo sangue insieme a un'orda di ectoparassiti sulla pelle piegata dall'umidità. C'è stato un tempo in cui le divise erano mimetiche, sai? Avevano colori diversi a seconda della fazione, c'erano gradi e gerarchie, servivano per nasconderci e per riconoscerci. Ora invece siamo tutti uguali. Il soldato cerca di deglutire, ma non ha più saliva, ha sete. Cerca nello zaino la borraccia, ma trova soltanto una bottiglia mezzo vuota di vodka. Sull'etichetta nera, alcune lettere argentate e fredde come la notte ne compongono il nome. Vodka fu in le. Il soldato canticchia tra sé e sé il jingle pubblicitario del liquore sponsor del conflitto pancontinentale, portandosi il collo della bottiglia e labbra screpolate e martoriate dalle punture d'insetto. Un sorso per la guerra che combattiamo, sorso per la pace che costruiamo. Non è mai giorno, non è mai notte, il tempo eterno con la vodka fu in le. Il sapore dell'eroe immortale. Beve la vodka ed è come se tirasse una testata ad un muro, un autodistruttivo e liberatorio. Il soldato sa che se dovesse berne anche solo un altro sorso uscirà di senno. È stanco, ha fame, ha paura, ma lo fa. Presto arriverà la notte e il freddo metterà in dubbio la sua stessa esistenza. Scena 2, esterno, si espande il crepuscolo. Si alza un nugolo di zanzare, ma il soldato è ubriaco e non sente le punture, non sente più la stanchezza, non sente più nulla. Squì, squì. Si sente in lontananza lo squittire di un topo e il soldato, recitando con enfasi una filastrocca popolare antipacifista, caracollando verso la fonte dello squittire, il soldato dice: «Qui non c'è mai nulla da fare, piccolo sorcio, allora io ti sparo». 3 settimane di guardie, tu sei l'unico nemico che vedo. Sei qui per rosicchiarmi la suola degli stivali e cacarmi nella gavetta. Sabotatore, io ti sparo. Il topo scappando. Squid, squid. Scappi? Sorcio sabotatore vigliacco. Dai, giochiamo al soldato al pacifista, piccolo topolino. Il soldato, dopo una curva a gomito, si arresta all'improvviso. Scena 3. Esterno. Il buio è calato e presto il cielo sarà crivellato di stelle. Il gelo indurirà la terra e sbiadirà i respiri. Cambia il punto di vista, soggettiva sdoppiata dall'ebbrezza alcolica del primo soldato, che inseguendo il topo con gli occhi bassi, si incaglia in un'apparizione improvvisa. Davanti a sé compaiono un paio di stivali militari dalle stringhe sporche e fluorescenti. Del topo non vi è più traccia, ed è come se si fosse trasformato in quell'altro soldato, con la divisa internazionale d'ordinanza, fasce catarifrangenti sulle maniche e bottoni illuminati a LED, che si staglia di fronte a sé e lo scruta terrorizzato. I due soldati si osservano. Il primo, che capirà se chi ha di fronte a un nemico o un alleato avrà salva la vita. Non parlano, perché idioma e accento potrebbero svelare la propria area di appartenenza, mandandoli in confusione. Gli equilibri geopolitici di questa guerra senza fine non possono essere compresi dalle persone comuni. Le ragioni della guerra, nuova scienza e nuova fede universale, non hanno bisogno di essere esplicitate. Le conosce chi governa per il bene comune. E questo è quanto. Ai soldati non resta che studiarsi, come bestie che annusano i frutti della terra per capire se sono velenosi. Il secondo soldato, gettando il fucile a terra, alzando le mani, recita il non credo del pacifista. Non credo nella guerra, menzogni dei potenti. E il primo soldato, togliendo la sicura al fucile e prendendo la mira. Ci mancava solo questa. Stai zitto, orribile pacifista, zitto. Li conosco i codardi come te. Non credo nelle ragioni della guerra e nella sua lotteria che sacrifica così il vecchio come il bambino, così la donna come l'uomo in nome del bene comune e del progresso pianificato. Il primo soldato, col fucile spianato, si avvicina al secondo. Sta perdendo la pazienza e comincia ad aver freddo. Pensa alla sua divisa, che è rimasta sullo zaino ad asciugare. Stupido sorcio pacifista, lo vedi cosa in mano? Sei cieco oltre che scemo, è un fucile, hai la canna di un fucile in mezzo agli occhi. Cos'è questa se non è guerra? Il secondo soldato si inginocchia senza smettere di pronunciare il suo non credo. Scena 4. È scesa la notte sopra i soldati, così come la certezza che quando l'alba arriverà col suo velo di nebbia e oblio, uno dei due sarà morto e l'altro maledetto. Il primo soldato non ha mai ucciso prima. Il pacifista che ha di fronte è il primo nemico che ha incontrato da quando il suo codice identificativo è stato estratto dalla lotteria della guerra. Insieme a lui altri 10 tra uomini e donne che non ce l'hanno fatta. Alcuni sono periti durante l'addestramento, altri sono morti di freddo e altri ancora per colpa della vodka e della malaria. Cambia l'inquadratura, semi-oggettiva dal punto di vista del secondo soldato. Viviamo la trincea nascosta dietro alla sua nuca, che esplode in un fiore rosso che sboccia in timelapse. Piccole perle vermiglie si infrangono sul vetro della telecamera che precipita con lui ruotando di 90 gradi. Vediamo, tra gli schizzi di sangue che si trasformano in lacrime rosse, il primo soldato allontanarsi. Se sarà fortunato, farà in tempo a tornare nella sua postazione ed indossare la divisa, accendersi un fuoco alimentato ad acetilene e a non morire di freddo, forse. Ma non è facile orientarsi nel labirinto di tunnel scavati nelle decadi passate. Non è semplice evitare i crepacci in questa notte nera e fredda. Avrebbe dovuto depredare il cadavere del pacifista, avrebbe dovuto rubargli le armi, la divisa e la vodka fu in lei. Al soldato torna in mente il jingle e torna a canticchiare, con le mandibole percosse dai brividi, e pronunciando l'ultima parola cade a terra e precipita in un sonno eterno. L'eroico soldato perisce sotto la scuria dell'inverno della notte. Seminudo ed ubriaco, il suo ultimo nobile pensiero va al bollente conforto del piscio che si espande come un abbraccio dal cavallo dei pantaloni della sua divisa militare. Sarda, sei ancora lì? Sì? Sono ancora qua, sono veramente emozionato dalla voce di Valeria che ci ha raccontato questa storia struggente, inquietante allo stesso tempo. Sì, no, già rispetto all'altro racconto, diciamo che si entra più dentro proprio in una storia, no? E beh, questo mi sembra positivo. Sì, sì, no. per questo racconto, poi per l'altro forse meno. No, nel senso, per come è raccontato, proprio si è nella trincea, no? Sì, esatto, sì, ti coinvolge molto. Infatti la cosa bella è che appunto questo nemico che nel racconto non si vede, non si sa chi è in realtà la guerra stessa al nemico, cioè fuori di metafora è lo stesso sistema in cui viviamo, e i pacifisti sono quelli che non accettano l'ordine imposto e negano quindi che la guerra sia l'unica delle realtà possibili in cui vivere, quindi come dire scardinano e fanno andare in cortocircuito il soldato conformista che si autodistrugge alla fine per questa sua volontà di conformismo e di eseguire gli ordini, no? Che lo fa andare fuori, lo fa sclerotizzare completamente. Quindi... Sì, no, poi neanche si sa se poi il pacifista l'ha incontrato realmente oppure se è un fantasma generato dai fumi dell'alcol e delle sue paranoie, esatto, e esatto. Convinzioni, no? Hai detto fantasma, ti sei autocitato. No, a parte gli scherzi, no, è vero, questa è molto visionario il racconto, per cui hai questa atmosfera in cui non sai se quello che succede è vero o è frutto di un'allucinazione del protagonista, che è il soldato più conformista, appunto. Per cui bene, molto mi fa piacere che sia così bello il racconto. Brava Valeria. Sì, no, bravissima. No, appunto, comunque diciamo questo racconto è appunto imperniato su quello che su chi è il nemico, no? Esatto, chi è il nemico? Chi decide chi è il nemico? E chi decide? Giusto, questa è la domanda. No, nel senso, no, se vogliamo, sì, allora, è un'ambientazione distopica, però parla poi di quello che viviamo tutti i giorni, no? Sì. Della ricerca, della costruzione del nemico, di questo, esatto, di questo fantasma, no? Ad arte del nemico, che appunto in realtà è qualcosa di costruito per farci condizionare nei comportamenti, insomma, per controllare e gestire i nostri comportamenti. Sì, come tutto diciamo lo strumento della fantascienza, tu lo sai, ma diciamo se fossimo in un salottino di te non lo direi, però forse ci ascolta qualcuno, quindi magari lo diciamo, nel senso della fantascienza. Sì, sì. Noi siamo molto appassionati di questa cosa. Molto. Perché appunto è uno degli strumenti per parlare della realtà per metafora, per iperbole, diciamo, portando all'estremo degli aspetti presenti nella realtà contemporanea che si vive, portandoli allo estremo, ma in realtà per denunciarli, per stigmatizzarli, per evidenziarli in maniera chiara, e quindi poi in realtà la fantascienza è sempre molto meno truce della realtà, per quanto poi sembri invece il contrario a prima vista. Quindi la fantascienza, se tu prendi anche i romanzi di Ballard, James Graham Ballard, come Regno a Venire ad esempio, o Condominium, sono esemplari perché sembrano dei romanzi che potrebbero essere addirittura neanche ambientati nel futuro, ma semplicemente nel presente, però è un presente talmente allucinato che tu dici ma no, questa non è la realtà, però poi in realtà se ti fermi a pensare sono perfettamente plausibili, per quanto estremi i suoi racconti. sì, cioè, viviamo in un presente abbastanza allucinato, no? No, nel senso, poi allora, la tematica è abbastanza pesante, quella della creazione del nemico, no? Però ascoltando questo racconto mi viene naturale, insomma, trasportarlo, insomma, al presente, in cui, non so, esempi di nemico, di cosiddetto nemico definito da qualcuno, insomma, contestazione di piazza, ecco, rompi una vetrina, diventi un devastatore, viene appellato con questo termine spregiativo e messo alla gogna su tutti i media, e con pene pesantissime, insomma, vabbè, con anche pene pesantissime, diciamo, che chiaramente mirano a limitare la tua azione. Quello diciamo, è una strategia del sistema in cui viviamo, per limitare, per autopreservarsi, questo è evidente, diciamo. Però nella cosa bella anche del racconto, che c'è un certo sarcasmo anche, soprattutto nel finale, in cui, diciamo, si denuncia poi la miseria, diciamo, di questa realtà quotidiana, che diciamo, se uno la vive in maniera conformista, poi è un'esistenza assolutamente bieca, e in cui l'unico sfogo è un po' di vodka e canticchiare un motivetto idiota di una multinazionale dell'alcol. Sì, sì, poi l'unico destino, insomma, riservato al protagonista è stato morire nella propria urina, no? Urinandosi, confortandosi, diciamo, nel fatto che in quel momento lì ti stai pisciando addosso. Ovviamente c'è chiaramente del sarcasmo in questa cosa, ma è come dire, anche questo parte dell'idea che vale più la pena certamente vivere da pacifisti, entrando nella metafora del racconto, quindi da anticonformisti nella realtà che viviamo, che fare quella misera vita che poi fa il soldato, e quindi che fanno le persone, diciamo, più che accettano questo stato di cose così com'è, come il migliore dei mondi possibili, insomma. Sì, e quindi no, forse è anche cioè, è anche più semplice, nel senso, allora, facendo casino, no, vabbè, ma come al solito, insomma, ci andiamo ad incastrare. Però tu dicevi, parlavi di conformismo, no? Sì. Quanto invece poi credo sia anche più semplice, sai, proprio andare a decostruire queste sovrastrutture imposte del nemico, no? Cioè, quindi ad accettare, sei intelligente, no, vabbè, no, insomma, no, nel senso, saper accettare il diverso, no? Io, ascoltando il racconto, ho fatto un po' dei ragionamenti miei, insomma, appunto sulla creazione di questo fantasma che è il nemico, no? Fantasma è nemico, l'hai detto, Come? Hai detto fantasma è il nemico, l'hai detto. Io sono il nemico. Sì, però sono un fantasma. Quindi sei imprendibile. Imprendibile. No, pensavo appunto cioè, hai un comportamento diverso, ti possono fare un TSO. Assolutamente, sì. Adesso noi tendiamo sempre anche un po' a usare anche l'ironia, queste cose qua, ma in realtà è un problema assolutamente serio questa cosa qua. E d'altronde, l'ho detto all'inizio, questa, diciamo, la quotidianità, se noi guardiamo con uno sguardo macro, cioè con uno sguardo dall'alto generale su quello che succede quotidianamente, l'ordinario funzionamento di questa grande macchina che è il sistema in cui viviamo, è in realtà ha dei costi umani esorbitanti. Cioè il mantenimento dell'ordine e del funzionamento di questa grande macchina è una macchina di sofferenza che ha delle dimensioni spaventose. Cioè, noi pensiamo agli esseri umani, va bene, ma noi abbiamo fatto anche, siamo antispecisti dichiarati, e se pensiamo a quello che succede al mondo animale ogni giorno, è una cosa, un abisso di disperazione che veramente fa tremare davvero i polsi quando ci si pensa. E chiaramente non questo non vuol dire che, cioè, la liberazione dell'uomo parte appunto da antispecisti, pensiamo che parta anche, che la liberazione animale e la liberazione umana siano parte dello stesso problema, insomma, quello senz'altro. Però appunto il tema è anche questo, insomma, che noi viviamo in una quotidianità che ricorda sempre più spesso un bollettino di guerra, se si guarda anche banalmente le notizie, al di là dei titoli si legge, si prende coscienza di quello che accade. Per cui, diciamo, il concept alla base è un po' questo. Detto questo, appunto, è stato usato questo modo di raccontare anche un po' come una sceneggiatura, no? Mm-hmm. Nei momenti in cui si parla di inquadrature, come se fosse la bozza di una sceneggiatura. In realtà il titolo, il sottotitolo del racconto sarebbe Sceneggiatura di un film di guerra senza la guerra, cioè come un film senza il protagonista, in cui il protagonista è qualcosa sullo sfondo, insomma. Quindi si può prestare anche a varie letture questo racconto, insomma. Senti, ti tiro fuori un po', insomma, dalle dissertazioni filosofiche sul tema. Ecco, bravo. Arrivando alla realtà, no, perché anche la realtà sa essere distopica. E voi avete siete spesso in giro a suonare anche fuori dall'Italia. Siete, insomma, esploratori di quello che è l'est Europa estremo, o Asia addirittura, no? Sì. Assolutamente, sì, ci piace andare in posti non battuti da altri, cioè non comuni, insomma, per i gruppi che vanno in tour. E la Russia, qua lo dico e lo dichiaro pubblicamente, è uno dei posti più belli dove andare a suonare. Quindi chi ha un gruppo e ci sta ascoltando, vada in Russia al più presto a suonare, perché lì c'è un entusiasmo e una voglia veramente incredibile. Ma non a Mosca, San Pietroburgo, che bene o male sono luoghi dove qualcuno c'è andato e dove si può andare relativamente facilmente, ma verso est, verso Nizhny Novgorod, Togliatti, Kirov, Kazan, quei posti, diciamo, meno noti, che se uno non sa bene dove sono neanche finché non guarda sulla cartina, io per primo, quando ci siamo andati abbiamo dovuto guardare dove erano prima di tutto. Però lì veramente c'è l'idea di entrare in contatto con delle realtà cui l'entusiasmo è qualcosa di sincero e veramente al di fuori dei standard che siamo abituati a vedere qua, dove bene o male un concerto è un evento abbastanza comune, insomma. E cosa pensi abbia significato per, non so, un abitante di Kazan assistere a questa invasione di punk milanesi? Guarda, per me, io ti dico cosa ha significato per lei. Per me è stata, sì, un'esperienza bellissima. I ragazzi chiaramente sono tutti entusiasti, perché per loro, figurati, un concerto è un evento, diciamo, relativamente comune magari, ma un concerto di un gruppo da fuori è un evento storico, nel senso che veramente per loro è la serata importante. Noi abbiamo fatto anche dei lunedì sera, a fare suonare in posti pienissimi, con la gente proprio che lo vedevi che stava vivendo un'esperienza per loro importante, ma a prescindere, diciamo, da noi, dal fatto che ci conoscessero meno, che, cioè, non voglio fare un discorso, noi siamo sempre stati contro il divismo, contro questa roba lì, certo. Ad esempio è anche un po' difficile gestire questa cosa, perché hanno un modo di fare anche un po' naif, nel senso, ti chiedo l'autografo, vogliono fare sempre le foto insieme a te, per cui, cioè, c'è anche questo atteggiamento che però non è come quello che potremmo immaginare noi, visto da qua, una roba superficiale. È proprio il ricordo di un evento importante che succede, perché non è comune. Per dirti, noi abbiamo suonato a Yakutsk, in Sasha Yakutia, che se guardi dov'è ti vengono i brividi. È praticamente anche a starci, immagino, per le temperature. Dico, anche a starci, immagino, per le temperature. Sì, esatto, vabbè, no, noi siamo andati nella stagione migliore, okay. Perché, diciamo, ecco, appunto, Yakutsk è nella Siberia orientale, è il polo del freddo, cioè il luogo più freddo del mondo, uno dei luoghi più freddi del mondo, dove d'inverno si scende a meno 50, dove non puoi andare in giro in macchina se non hai una persona a fianco, perché sennò metti che ti viene un colpo di sonno, muori congelato. Cioè ci sono tutta una serie di cose che cambiano un po' la vita quotidiana. E per dirti, ti dicevo questo perché noi quando siamo andati lì abbiamo raccontato tutto sul nostro blog, è molto divertente anche se leggere i racconti, ma quando siamo andati lì, l'ultimo, siamo andati lì l'anno scorso e l'ultimo gruppo che era stato lì prima di noi, che non fosse russo, era praticamente un gruppo degli anni 90 finlandese che sarebbero diventati poi YIM. Quindi diciamo 25 anni dopo è arrivato un altro gruppo straniero. Credevo i ricchi e poveri. Esatto, diciamo, non so se, credo che neanche Toto Cutugno abbia fatto un concerto da quelle parti. Per cui lì al di là del fatto che poi la gente ascoltasse punk o meno, cioè è stato un evento importante, cioè senza esagerare, per la città. Certo. Per cui non tanto perché fossimo noi, ma perché eravamo un gruppo che arrivava da fuori. Chiaramente non tutti sono così scriteriati come noi, che quando ci hanno detto andate a Yakutsk, c'è possibilità di organizzare un concerto, noi abbiamo detto sì, senza bene capire cosa e dove saremmo andati, anzi in realtà sapendolo e andandoci proprio per quello, perché nella vita in effetti non è che uno ci può andare tanto spesso a Yakutsk, cioè o ci vai a suonare, se no non è che puoi dire un luogo turistico dove vai a farti una vacanzina. Senti, ritorniamo però anche sul tema del racconto, no? Perché io so che durante uno di questi tour che avete fatto nell'est estremo siete stati oggetto di attenzioni particolari su chi ha identificato in voi il nemico. Ah, attenzione, tu stai alludendo all'irruzione degli Homo a Minsk? Esatto. Ecco, famosa irruzione. Allora spieghiamo un po' di cosa si è trattato. Sì, appunto, siamo in Bielorussia, che per quanto si possa associare alla Russia in quanto un po' a orecchio sembra lo stesso paese, in realtà la Bielorussia è un paese ancora più legato al passato sovietico di quanto non sia la Russia oggi. E questo un po' lo si nota perché in realtà è una delle poche vere dittature, cioè Lukashenko, il dittatore, insomma, il presidente, non so come chiamarlo, della Bielorussia, che ha tipo un consenso dell'80%, è tipo un personaggio praticamente semidivino. Sì, insomma, un simpaticone. E praticamente niente, noi abbiamo suonato all'inizio del 2015, se non ricordo male, a Minsk una data, era il sabato sera, era un concertone bello in un locale molto, molto figo, nel senso che lì, non essendoci centri sociali, per questioni che se occupi vieni arrestato e buttano via la chiave, quindi diciamo i punk si organizzano affittando dei locali come qualsiasi promoter eccetera, poi chiaramente facendo però, portando i contenuti veri della, insomma, del punk all'interno del do it yourself eccetera, mm-hmm, all'interno di questi spazi. Però è l'unica soluzione che sono riusciti a trovare, quella appunto di affittare degli spazi. Ci hanno affittato questo locale, tra l'altro super figo, palco super strafigo, con non so quanti milioni di euro, migliaia di euro di strumentazione. Abbiamo fatto il nostro soundcheck e poi siamo, insomma, andati a sbevazzare come facciamo di solito. Lì cosa succede? Abbiamo visto che stavano entrando un sacco di gente, ci sono state 300 persone, 400 persone che stavano entrando, e aveva appena iniziato a suonare il primo gruppo della serata, e a un certo punto fanno irruzione arrivando su un autobus di linea questo corpo speciale paramilitare che riguarda le azioni un po' sporche, insomma le cose che non si devono sapere, che sono gli Omon, uomini pronti a tutto. Esatto, c'è sul loro motto è: noi non abbiamo pietà e non la chiediamo. Questo è il livello, per dirti. Però sono arrivati piacere Kalashnikov Collective. Esatto, cioè, proprio è stato uno scambio di vedute molto civile. Loro sono entrati con le armi spianate e hanno messo tutti spalle al muro, hanno interrotto il concerto e niente, hanno cominciato a interrogare tutti quelli che erano presenti, filmandoli con la telecamera. chiaramente passamontagna, tu non vedevi nessuno, urlavano nella loro lingua. E vabbè, a un certo punto abbiamo detto che erano italiani, guardato il passaporto, eccetera. E noi avevamo, a un certo punto, insomma, la roba è durata circa un'oretta e non sapevamo bene cosa fare. Tra l'altro, la cosa divertente è che Valeria aveva dimenticato il passaporto nel backstage, è stata accompagnata da un uomo armato da sola nel backstage a riprendere il suo passaporto. È rimasta tipo 10 minuti da sola con un uomo armato in tuta mimetica e passamontagna nel backstage, senza sapere che intenzione avesse. Poi alla fine niente, insomma, ci hanno liquidato e hanno detto: voi siete stranieri, uscite. E lì abbiamo pensato che volessero fare qualcosa veramente brutto, mm-hmm, tipo scuola Diaz, una roba che volessero menare la gente che era lì dentro, perché... E quindi, insomma, abbiamo avuto un po'... Ci siamo guardati in faccia, abbiamo cercato di capire, ma poi alla fine non è che avessimo possibilità di fare molto. La cosa più divertente, che sembra proprio la battuta finale tipo degli sketch dei Monty Python, è che il capo, che era uno stronzo colossale, e ci guarda tutto così e dice, in pratica, al suo sgherro, che sapeva un po' d'inglese, ci spiega che, insomma, si scusa e dice: no, italiani, mi dispiace, qua abbiamo fatto una retata per catturare i fascisti anarchici. Ah, però è già qua. Però voi potete andare. Noi avevamo tipo tutte le cose, le A di anarchia, le toppe con l'Animal Liberation Front, tutte le cose, quindi voi non c'entrate. Quindi siamo usciti e la cosa bella è che prima di uscire il tipo ci fa: ma voi dovete prendere i soldi, il cachet per la serata. Noi ci guardiamo in faccia e ci chiediamo: ma scusami, un poliziotto mi sta dicendo di prendere dei soldi in nero per un concerto che manco ho fatto? Cioè, renditi conto di cosa vuol dire lì la polizia, che livello di corruzione ha, probabilmente perché volevano la mazza. Certo. E allora niente, noi abbiamo detto: no, noi non vogliamo niente, non abbiamo suonato, non prendiamo niente. Usciamo e niente, rimaniamo un po' lì fuori dal locale. Poi, insomma, questi qua alla fine hanno preso un paio di ragazzi che vendevano lì le distro e li hanno trattenuti con delle accuse, tipo: ah, esiste l'accusa in Bielorussia, tra l'altro, a proposito di regimi totalitari, di diffusione di materiale sovversivo, cioè tu puoi essere incriminato per questa cosa. Quindi questi due ragazzi hanno avuto un po' di problemi giudiziari, poi dopo loro sono saliti sul pullman di linea da cui sono venuti, e chiaramente per stare in incognito, per non farsi sgamare quando arrivavano, e sono andati via. Questa è stata la nostra esperienza. Poi chiaramente i ragazzi ci hanno organizzato un concerto in un garage, in uno scantinato alla periferia di Minsk, in mezzo alla neve, ed è stato veramente fantastico, liberatorio, molto meglio che se avessimo suonato nel locale strafigo. Però diciamo, questa è stata un'esperienza della nostra diciamo del nostro rapporto con la polizia antiterrorismo Bielorussia. Senti, io allora dopo questi racconti andrei a passare un po' di musica. Bravo, sono un po' noioso a parlare. No, non per quello, magari al tempo, insomma, di farti un chinotto ghiacciato, e passiamo un pezzo che hai scelto per questa sera. Qual è il primo? Quello che vuoi. Quello retro. Allora, facciamo così. Sì, mettiamo questo qua. Allora, avrei preferito mandarvi la versione dei frammenti, quella coverizzata dalla band di Torino degli anni 90, ma non l'ho trovata, registrazioni decenti, così ho scelto questa, la versione originale. Insomma, parliamo di Area, Gioia, Rivoluzione, grande band di Stratos, Fariselli, Capiozzo, Tavolazzi e Tofani, cinque grandi beniamini miei, di cui sono devoto fan e di cui tutti noi calagini siamo più o meno devoti fan. Questa canzone è a metà tra prog e folk, Gioia Rivoluzione, del 1975, è dall'album Crack. Allora, andiamo. Ci ascoltiamo Gioia Rivoluzione, appunto, degli Area. Dai. Bella. Canto per te,

Ed eccoci di ritorno dal pezzo degli Area. E che bello, sempre bello. Sempre bello. Senti, non devi mai sottovalutare gli ascoltatori e le ascoltatrici di Do It Yourself Invasion, perché sono molto molto attenti e ci arrivano delle precisazioni. Attenzione. Io leggo testualmente da Torino. Lukashenko. No, salutiamo il Mastello, insomma, vabbè, sempre all'ascolto, sempre attento, che ci scrive che non era una cover dei Frammenti, ma un pezzo che introduceva Amore e Rabbia nella demo tape, appunto, del gruppo torinese. Sì, vabbè, era un pezzo. Dicevi i Frammenti. Giusto, giusto, Mastello è filologico. Certo. Ha ragione. Lo ringrazio di questa ringraziamo di questa precisazione. Sì, diciamo, non era la canzone estesa, era in effetti un pezzo iniziale che pone, era la melodia principale, che con la frase iniziale di il mio amico il contrabbasso che ti spara sulla faccia, eccetera, era un pezzettino della canzone. In effetti non hanno mai fatto la cover completa, però insomma, diciamo che mi rimanda appunto quella frase a un qualcosa dei Kalashnikov. Il mio mito è un contrabbasso. Contrabbasso, ma tu dici, ma ho sempre sognato di mettere un contrabbasso nelle nostre canzoni, ma non sono mai riuscito a trovarlo a buon mercato, e quindi non l'abbiamo mai messo. Abbiamo messo un violoncello una volta, diciamo, questo è, siamo arrivati fino a lì. Però insomma, guarda, sono passati 40 anni da questo pezzo qui, no? Direi proprio 40 anni. Sì, quante, cioè un pezzo appunto che si intitola Gioia e Rivoluzione, è un ballo appunto, appunto con il tema della rivoluzione, pensando al sì, pensando alla liberazione del Vietnam, proprio in quegli anni. Loro si immaginavano di essere dei diciamo rivoluzionari, diciamo senza un luogo preciso, che ne so, fossero in Messico, in Vietnam o in qualsiasi altro posto, davanti al fuoco, che si trovavano a cantare. Infatti la parte, l'intro con i trilli di cui che hai sottolineato all'inizio di Stratos, poi dopo parte una specie di ballata folcheggiante che poi stracima e straripa nel finale, in cui tutti cantano, ed è proprio il momento della gioia, diciamo, del pezzo. E 1975 era stato un anno in cui forse il movimento, adesso io non sono un esperto di quegli anni lì, però mi appassionano sempre tanto, e 1975 pareva l'anno, insomma, in cui sembrava veramente lì il cambiamento, che ce la si potesse fare, almeno a Milano, perché gli Area sono comunque un gruppo che gravitava a Milano. E quindi appunto 1975, Crack, anche il nome del disco, era un po' l'idea che qualcosa si potesse rompere finalmente, che si potesse arrivare a incidere in quella realtà. E poi la storia negli anni successivi è andata diversamente, però c'era questo sentimento, e gli Area appunto hanno fatto questo disco qua, che era anche uno dei più accessibili tra quelli che hanno fatto, i cinque dischi che hanno fatto nel periodo diciamo del gruppo Costratos, insomma. E quindi questa canzone è un po' la summa di questa cosa, ed è stata sicuramente una bellissima, un bellissimo modello, una bellissima lezione esistenziale anche per noi tuttora, diciamo. Allora, caro Sarta, noi come al solito oltrepassiamo i limiti della trasmissione, andiamo a scavallare negli spazi delle altre trasmissioni, i tempi un po' stringono, però volevo passare il... Scusa la logorrea, fantasma. No, ben venga. Tanto che ero così. No, ben venga. E passiamo a un altro pezzo che hai scelto? Esatto, l'altro pezzo che ho scelto è Sangue che vive. Qua siamo molto dopo, il gruppo sono Le Tormenta di Forlì, e Sangue che vive è un pezzo un po' inusuale per loro, è una specie di folk, anche qua siamo in ambito folk, li ho scelti insieme appunto anche per questo loro connotato simile musicale. È un pezzo folk struggente, un manifesto poetico loro, in cui appunto i nostri cinque amici danno vita a una specie di ballata dedicata all'amicizia, all'amicizia, agli amici, come dicono da quelle parti, insomma, un pezzaccio veramente bellissimo ed emozionante. E ci ricolleghiamo all'inizio della trasmissione, appunto, il racconto che abbiamo ascoltato, lo potete trovare nello split appunto tra Contrast e Kalashnikov, e questo è questo pezzo qui sta in un 7 pollici che tengo in mano proprio in questo momento, che è un contrasto, in effetti, la poesia è azione, la poesia è azione, tutto si collega bene come un grande Ouroboros, va bene. Dai, allora, Le Tormenta, Sangue che vive. insomma, quale miglior pezzo per chiudere le nostre chiacchiere? È un'emozione ogni volta questo pezzo, è eccezionale, veramente. Sì, guarda, molto meglio delle nostre chiacchiere, delle mie soprattutto, quindi direi che sono molto contento di chiudere con questo pezzo, che è veramente un inno all'andare al condividere, insomma, le esperienze della vita. Con questa massima direi che possiamo chiudere. No, cioè, mi associo insomma a quello che tu dici. Ti ringrazio appunto per aver collaborato con Radio Onda Rossa con la presentazione di questo racconto. Grazie mille, Fantasma, figurati, un piacere mio, piacere nostro, e scusa la logorrea. Rinnovo ancora l'invito a tutti a mandare a Valeria i racconti, insomma, i propri racconti, che noi cercheremo di diciamo, brutalizzare musicandoli e recitandoli, però ne varrà la pena, insomma, quindi mandateci tutto quello che scrivete. Benissimo, quindi un laboratorio aperto e attivo, appunto, un'intersezione tra Radio Onda Rossa e Kalashnikov Collective. Queste sono cose importanti, appunto, che fanno vivere la radio. No, sono veramente emozionato di questo progetto e di questo confluire di energie, di idee, di affetti. E bello, insomma. Guarda, è un grande piacere. Se c'è qualcuno che ci vuole proporre delle altre collaborazioni, Kalashnikov Radio Onda Rossa o chissà quale ente terzo, quale realtà terza, si faccia avanti, che noi dal nostro punto di vista prendiamo tutto. Siamo disperati, siamo sempre in cerca di qualcosa, per cui non fatevi problemi e contattate sia la radio che noi. Ok. Fantasma, un abbraccione. Un abbraccio a te. A tutti, e ci vediamo ai transiti allora. Va bene. Allora ci vediamo prestissimo. Sì, al GTA forse. Esatto. Lo andrò a raccontare adesso tra poco, insomma, del tour che avrà il banchetto di Radio Onda Rossa questo weekend in giro per l'Italia. Quindi ci vediamo presto. Grazie ancora, Sarta. E bella. L'appuntamento, insomma, per il prossimo racconto vediamo se sarà non il giovedì prossimo, che andremo a presentare Metal Against Fascism, un festival metal che sarà organizzato il 14 di maggio qui a Roma, appunto per andare proprio a sottolineare il metal antifascista qui a Roma. Lo andremo a presentare giovedì prossimo, quindi probabilmente ci risentiremo tra due settimane con un altro racconto ideato e musicato dai Kalashnikov Collective per Radio Onda Rossa. E Sarta, grazie ancora, un abbraccione e ci vediamo presto. Un abbraccione e ciao a tutti, bella. Ciao. E quindi sì, giovedì prossimo andremo a presentare Metal Against Shit. Il metal ha bisogno dell'antifascismo, l'antifascismo ha bisogno del metal. E quindi un festival con tantissimi gruppi che avverrà il 14 maggio. Dalle ore 18 al Ben Ci Vengo Occupato, l'andremo a presentare appunto giovedì prossimo. E invece giovedì scorso non abbiamo fatto in tempo a passare un pezzo che aveva scelto Stiopa, sempre dei Kalashnikov. Andiamo a chiudere così, rimanete all'ascolto perché tra pochissimo we'll be right back. tra pochissimo appunto una nuova puntata di Apostasia. Noi vi lasciamo con un pezzo scelto da Stiopa. È un gruppo russo, loro sono i Kino. Un pezzo che tradotto abbiamo visto la notte. Siamo usciti di casa quando in tutte le finestre si sono spente le luci. Una dopo l'altra abbiamo visto andare l'ultimo tram. Passano i taxi, ma non abbiamo da pagare. E non ci servono mezzi, andiamo in giro da soli. Nel nostro registratore è finito il nastro, riavvolgilo. Abbiamo visto la notte, siamo andati in giro tutta la notte fino al mattino. Fai un salto alla cabina telefonica, di che chiudano la porta. Nel tuo appartamento togliti le scarpe. Cammineremo a piedi nudi, abbiamo sigarette, fiammiferi e una bottiglia di vino. Ed essa ci aiuterà ad aspettare, ci aiuterà a credere che tutti dormono. E noi due siamo qui soli. Abbiamo visto la notte, siamo andati in giro tutta la notte, fino al mattino. E quindi grazie a tutte e tutti per l'ascolto. Il nostro saluto più caro va a tutti coloro si trovano in condizioni di limitata libertà, quindi un abbraccio forte. Поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем.